Occhio alle preposizioni. A. Ascolta e controlla. Da 2 settimane Edoardo chiede al libraio se è arrivato Sfera, un nuovo libro di architettura. Ci sono stati dei giorni di festa e qualche volta le consegne arrivano in ritardo, ma Edoardo è stanco di aspettare. Non vuole rinunciare a questo libro, anche se ci sono tanti altri libri di architettura a disposizione. In libreria ci sono tanti clienti in fila davanti alla cassa e il direttore della libreria chiede alla commessa di occuparsi di loro. Intanto il direttore parla con Edoardo e gli promette che, quando il libro arriverà al negozio, glielo porterà personalmente al suo studio.